lasciato, poi la ci sentiamo, dai, questi giorni. Sono stanco, faccio la TV, vado alla TV, tanto sicuramente mi addormenterò presto, presto, dai. Adesso vediamo, già ti aggiorno, dai, ok, ciao, buonanotte. Io te l'ho detto, quando vuoi andare vai al ghetto, c'è l'ufficio, ti do la posizione, vai lì. E me adesso dovevo prendere altra gente per fare il campeggio lì a Vignola. E lì stai bene, ti fai quei mesi lì da agosto fino a ottobre, cazzo giri una macchinetta, cazzo di doppio. Adesso vediamo, dai. Ma vita alloggio. Noi ci avevamo solo l'alloggio, poi vediamo, quest'anno non so se danno il visto pure, comunque c'è tutto, cucina, tutto quanto c'è, no, è un bel posto, dai, è un bel posto. E dove è questo, eh? La tortura, si guarda su Google Maps, la tortura, Vignola. Quanti campagne messo da qua? Rimane un'ora, rimane da notte. Ti posso salire Olbia? Ah, più vicino, Olbia più giù. Ah, passo controllo. Tu fai la sala di Castelsaldo, la sala di Rovagna devi fare. Adesso mi sto controllando, aspetta. Sarà siamo 80 km. Perché se devi andare, perché abbiamo un altro campeggio lì alla... sono 100 km, sono 20 km in più l'altro campeggio, invece questo qua lo vedo io 80 km, 75, 80 km, un'oretta se lì. Sto controllando. Come dice? Se sei Vignola. Vignola? Vignola, guarda lì. Basta che metti la tortuga, campeggi, camping, la tortuga, Vignola, te lo da subito. Ah, ce n'è poco di pelo di lì. Tutto buco. Sono rientrato. Stiamo facendo la cena a Simona. La tortuga già c'è pelo già, lì è pieno di pelo buono. Capito? Oh, qua mi dà... Maglia blu la tortuga, no? Quella lì è, maglia blu la tortuga, solo quella c'è, cioè Santa Teresa. Cazzo, sono qua mi da 3 ore e 23 minuti di macchina. Ah, buffonere, ma che tragitto ti fa fare? Come le cazzo di dopo Sassari? Camping, village, maglia blu, la tortura. La tortuga, tortura. Tu hai capito la tortura? Sì, allora sì che è torturato. Maglia blu la tortuga, quello è un bel campeggio. Ci ho fatto un mese di... Sì, vabbè, comunque. No, è bello, guarda, se vai lì, cazzo giri con la macchinetta, dalle 9, fai quei turni lì, dalle 9 alle... Poi nel box sono in gamma, nel box dove c'è la... che parlano in tedesco, dove c'è la sbarra, sono in gamma a tutti. Hanno due gambe? Eh? Due gambe c'hanno. Beh, le gambe ce le hanno sì. Se vuoi camminare ce le hanno sì. E allora? Te la ti ho risposta Alex. E cosa? Alex ha detto, ti ha risposto a quello che le hai chiesto. Sì, ma è toccato in culo. Cazzo di è. Cosa lì, dai? Antonio se n'è andato. L'ha trovato Luca. Aspetta che guarda, aspetta. Tu fai il tragitto di Santa di Romagno, fai il tragitto di Castelsaldo. Castelsaldo, Santa Teresa, quella zona lì devi fare. Cosa cercare? La tortuga, camping, la tortuga, Vignola. Vignola, sì. Cosa paradiso? No, prima è cosa paradiso. Vignola non so dove. Ce l'ho fatto tante volte. piscina, queste cose là diciamo andate tante volte io. E piscine ce ne sono quattro piscine, non una, no, quattro. C'è un mare, cazzo, deve ti mettere le mani in testa lì. Sai che dice tortuga? Tortuga o tortura? Tortuga, con la G, G-A. Ho da 3 chilometri. Io ti ho detto 80 chilometri, un'oretta le mani. Un'ora e 23 minuti. E anche prima, se fa quando vai anche prima. Sì. Passando per la strada provinciale 90, ciao già. Ciao. Stavo chiamando prima, dov'è che lì? Mi ha telefonato il Tonino, l'avevo al telefono. Ah, ok. Ti ha tagliato. Dove ti chiamerà? La fai? Devo valutare, dai. Se no, lo so cosa fai, Luca. Se fa un diretto, un sabato, una domenica, e chiedi. Forse che chiedono un problema. Adesso aspettiamo la guardia ambientale. Ma guarda, che secondo te? Tanti piatti. Ah, qua avanti papà, passi anche una ora. Vabbè, era un anche lontano, eh. 20 chilometri. Cosa? Che era anche lontano, detto. Beh, in effetti sì, molto lontano. Ha sentito, non c'è nulla. A febbraio vai lì, c'è quel ristorante, magari vi serve qualcuno, chiedi. Pausa al ristorante di Vasene Ruguri, di Vasene Ruguri, ma cosa, no, non fa quel lavoro lì. È meglio sentire, la verità, è più vicino, già c'è di tempi che lì. Non è che ci sia, bisogna andare per forza a cosa, ma a meno che non vai, come si dice, come dove dice Beatore, sto cercando personale, devo prendere personale e mettercelo a Dubai e poi da Dubai portarcelo, non so a quale caso ce lo vuole portare, io lo sapete che io pago bene, 2500 euro al mese, però cazzo loro non te lo dice, il discorso è quello, cazzo, è macro. Come mai tu hai preso l'ambiente della ristorazione? No, ma non è una ristorazione, è pulizie. Ah, pulizie, non è di cameriere. Cos'è che ha detto? Pulizie del cameriere? No, ho detto, non è di cameriere, cos'è di? Alle camere. No, pulire il resort, pulire il ristorante, pulire i bagni. Una roba di esterna. Di Cagliari. Che dai. Marco non li poteva vedere i cagliaritani quando lavorava, ha detto che era un filichino. Marco ha lavorato in ristorante però come cameriere. E ha lavorato nella zona di Urbia. È stato un bene, però ha detto che c'erano c'era un cagliaritano che era un ricchino che non finiva più. Ma non so solo cagliaritani, no? Qui ci sono di tutti, quando vai in quei posti lì ce n'è di tutti, di tutta la razza ne trovi. Ma voi si vogliamo domandare questo qua, stava semplicemente, io può mettervi, fai un padrone, ed era cameriere come gli altri. E vabbè, purtroppo, quando vuoi guadagnare qualcosa. Purtroppo ti dicono una cosa, ma ho notato che quando si fanno le stagioni ci sono le fregature di mezzo. E qua niente trovato. No, vabbè, sto facendo un po' di elettricista, stavo pensando opportuni, quel tagliafuoco. Ma cosa già sta facendo, non lo so, rimanendo fai, ma mi sono fatto la cavalcata, 100 euro. E niente, qualcosina la sta facendo, dai. E cosa hai fatto? Il lavoro che hai fatto a Porto Torre? No. Servizio d'ordine, là. Ah? Sì, abbiamo scortato con tutta la squadra i cavalli. Ah, ho capito. Diciamo che mi sono divertito da un posto di diversamente. Lo rifarei anche domani, uguale. Perché c'era da divertire? No, dico, non ti affatichi, sì, abbiamo camminato, è quello sì, non ti affatichi. Vabbè, che tipo di lavoro, non ti affaticano, responsabilità c'hai. Ma neanche. No. dietro di noi c'era la macchina, la pattuglia, diciamo, borghese. Io ci sono fatto portare le vigili urbani la volta che ho fatto il servizio d'ordine per i CB. Conosciamo questo vigile urbano, mi ha detto, il CB è con me in moto, ma io gli ho detto, mi pare vero. Casino. Adesso devo vedere, valutare. Ma devi andare domani? Cosa? Domani va. Domani vado al lavoro. Vabbè, bisogna farci scendere qualche arrosto anche, perché purtroppo non è mai tutto rose e fiori. Non ce n'è lavoro già, non ce n'è, e quando c'è sempre incurate c'hai casino, specialmente quando ci sono queste stagioni qua ancora a bici. E anzi qua qualcosa la trovi ancora a Napoli, io ho un'amica a Napoli e non riesce più a trovare lavoro, lei faceva assistenza anziani, non riesce più a trovarne uno e quando la chiamano gli voglio dare due cicche, non ci va, per cui cicche non ci va, perché per due cicche ha detto io non ci vado a fare la notte. E 7 euro ti danno a fare la notte, ma non fa, ma te mai io salgo 24 ore su 24 per dire a tenere un'anziana fa 7 euro, ma tu ci vuole di capo, sì. Io avevo la mia ex compagna che prendeva 1200 euro e non faceva la notte, la notte la faceva un'altra. Lui faceva dalle 9 sino alle 7 di sera e poi aveva finito, poi dalle 7 in poi entrava l'altra. Sì, ma per quei lavori lì si dovrebbero dare dalle 10 in poi, dai 10 in poi, non 7 euro, 7 euro è di buonuguro con quei lavori lì. Ma sai gli sforzi che fa, intanto erano lui perché alzava ammalato e cose da sola e faceva strati e cose. Ma già lo so che i lavori sono pesanti, non è così, no, non è mai da una donna allettata, la devi alzare, la devi pulire, la devi, non è così, no, devi farla mangiare, devi pulire la casa, ma cosa, ma se te, mamma, è così. Per carità, ti sfruttano perché sanno che non ce n'è. Sono la gente straniera può andarci lì, che non c'ha famiglia però, anche se uno che va a famiglia non va andare lì. Allora le straniere si fanno rispettare meglio degli italiani, conoscono tutte le leggi, vanno al sindacato. Lo so, perché io ne ho avuto una straniera, faceva quel lavoro lì, si faceva rispettare, capito? Infatti, vabbè, faceva bene, lo so. Ti faceva andare dei figli, quando gli è morto l'anziano che teneva, le ha lasciato 1500 euro per comprarsi un anello, perché glielo voleva regalare e poi non ce l'ha fatta perché è morto, e le ha dato al figlio i soldi per comprare un anello a lì. E oltre tutta la liquidazione, tutta la roba che gli hanno dato anche questi soldi per comprarsi l'anello, gli ha detto comprati l'anello perché lui ci teneva. Ma dipende, cazzo. Questo qui era ricco, questo qui c'aveva un bel dinaccio, aveva una bella villa con piscina e tutto, e la guardo pure il mio massaggio, ma la ci teneva lì, la teneva come una figlia. Se ti comporti bene è normale che ci teneva. Dava anche i soldi per andare in Russia, una volta gli ha pagato il biglietto per andarsene in Russia a farsi il figlio. Cazzo, figurati. Vai Lu, vai, io mi assento già. Ciao Gianni, ciao Luca, ciao Antonello. Mi stacco, mi guardo un po' di televisione, domani torno a trabagliare. Dai, adesso senti a me che faccio la notte, quindi a riposare già mi riposo tutta la notte. Ok, ma noi già ci sentiamo, ma ne vado via anche io, volevo portare giù il cane, non me la colpo che era così tardi. Dai, ci sentiamo, ciao Luca, ciao a tutti quanti, Antonello e anche da Sculturi, ciao. Ehi, ciao a tutti. Ehi, ciao, buon venerdì a tutti, ci sentiamo, state bene.